Proseguiamo nel nostro cammino di contemplazione di Gesù, di ascolto della sua parola, a partire dalla memoria e dal cuore del discepolo che lui amava. E vi dicevo che appunto mi ha sorpreso molto qualche anno fa, pochi anni fa, nello scoprire che tra i due tradimenti c'è il comandamento nuovo dell'amore. Mi ha sorpreso perché nella liturgia, che alcune di voi ricordano, la liturgia romana, nella Settimana Santa, e in uno dei giorni, adesso posso sbagliarmi se è martedì o mercoledì santo, si legge questo Vangelo, ma si legge il Vangelo e c'è la rivelazione del tradimento di Giuda, quindi anche Giovanni che gli chiede: Signore, chi è? E poi si passa subito dopo al rinnegamento di Pietro, no? E Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. No? E qui si conclude il Vangelo di quel giorno. Quindi è un giorno che riflette un po' sui tradimenti, no? Cioè il mercoledì santo, mi pare che sia il mercoledì comunque, o il martedì, no? Se è il martedì, e poi dopo si vede, il giorno dopo si vede Giuda che va dai sacerdoti, prende i 30 denari, ecco. E solo che togliendo la parte, no, io non critico i liturgisti che hanno scelto questo Vangelo, va benissimo, no? Però di fatto nel Vangelo a volte si usa, no? Lo vedete nel Messale, che la scrittura è tagliata, non è che è tutto, anche dell'Antico Testamento si sceglie un versetto, poi si salta un altro, così si compatta la lettura e si toglie qualche frase che non ha attinenza con quell'argomento. Però in questo caso, ripeto, io non critico quelli che hanno fatto questa scelta liturgica, indubbiamente c'è un peso di questi due tradimenti senza lo slancio e la grandezza delle parole che Gesù dice incastonate a metà di questi due episodi, che rivela come negativi. È Gesù che dice: mi tradirà uno di voi, poi Pietro tu mi rinnegherai tre volte. E proprio dentro a questi due fatti negativi dei due suoi discepoli, e Gesù disse: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui, e se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Fra l'altro, vedete che Gesù usa nei confronti dei suoi discepoli questo vezzeggiativo, no? Cioè, figlioli, no? E è un modo affettuoso di rivolgersi a loro, come figli e figlioli cari, no? Quindi, Gesù, tu ti rivolgi ai tuoi discepoli, e dei quali hai appena detto che uno ti tradirà, e dopo un po' dici: Pietro, anche tu mi rinnegherai tre volte, però con un atteggiamento affettuoso sorprendente. Sorprendente, figlioli. In questo Gesù, noi nel leggere la storia della tua passione e della tua risurrezione, no, questo è una delle linee di fondo che che possiamo tenere presenti, no? Questa fiducia incrollabile di Gesù nei confronti dei suoi discepoli. Mi tradite, mi lascerete solo, dice più avanti, ma io non sono solo, il Padre con me, ma io vi continuo ad amare, no? Figlioli cari. E poi anche da risorto Gesù, tu ti fai vedere, comprendi la loro incredulità, a volte anche la rimproveri, perché eppure Gesù ha fiducia in loro. Quindi Gesù, noi siamo incoraggiati da questo Vangelo a dire, in questi corsi di ritiro noi possiamo appunto chiederti perdono, dei nostri tradimenti, dei nostri rinnegamenti, dei nostri peccati, ecco, con la fiducia di sapere che tu, che li conosci già, che tu non ci togli la fiducia, non ci togli la filiazione, l'essere figli tuoi, non ci togli la vocazione cristiana, non ci togli il fatto che tu ci hai scelti per essere santi al tuo cospetto, nella carità, prima che il mondo fosse, prima della creazione del mondo, dice San Paolo agli Efesini, prima della creazione del mondo tu ci hai scelti perché fossimo santi al tuo cospetto nella carità, e la tua scelta non viene meno, la tua volontà è irrevocabile. E anche di Giuda, no? Sinare che abbia rivelato ad alcuni santi che se tu sapessi quello che ho fatto di Giuda ti meraviglieresti molto. E forse lui, ecco, il Signore, no, insomma, ecco, non facciamo ipotesi tanto, comunque, però senz'altro qualche santa in rivelazioni private ha ricevuto questo tipo di rivelazione da Gesù. Mi viene in mente per analogia un'altra rivelazione di Gesù, mi pare che fosse Santa Caterina da Genova, che era molto preoccupata per una sua amica che era in pericolo di perdere la fede o qualcosa di questo tipo, e quei dettagli posso sbagliarli o non li ricordo bene, ma quello che ricordo bene è che il Signore disse a quella persona, se tu sapessi, a quella santa, se tu sapessi quanto io amo quella persona di cui tu sei adesso preoccupata, tu non potresti pensare ad altro per il resto dei tuoi giorni, no? Cioè, noi a volte, questo lo insegnavano anche nella teologia classica, cioè che il Signore non si fa vedere a volte da noi, perché se si fa vedere noi, a parte che saremmo così attratti al bene che non avremmo neanche, che in qualche modo, ecco, per certi aspetti perderemmo la libertà anche di, invece di peccare, no? Che lui invece ci vuole lasciare, e poi non potremmo fare altro, saremmo così, così presi da questa bellezza infinita, da questo amore infinito, che non riusciremo nemmeno a lavorare. San José Maria, lo ricordavamo stamattina, quando aveva a volte dei doni di contemplazione molto forti, e per esempio racconta da giovane sacerdote che lo confermavano nella sua vocazione, che lo confortavano, che gli davano, era da solo e aveva questo grande progetto da portare avanti in mano, no? E anche nuovo per quei tempi. Comunque, e lui raccontava a volte che a volte lo invadeva l'orazione di contemplazione così forte, così, che non riusciva più a leggere il giornale, tanto che a volte diceva: Signore, lasciami in pace, voglio finire di leggerlo, no? Perché era interessato a sapere cosa accadeva nel mondo. Oppure quando ebbe quel dono immenso della filiazione divina, cioè del percepire, lo sapeva già che era figlio di Dio, ma per fede, no? Per formazione, ma percepì, si sentiva schiacciato come la terra, come fra la terra e il cielo, come tra due lastre di piombo, perché aveva questo compito immane da realizzare, non aveva un soldo, non aveva nessuna possibilità, insomma, aveva la mamma da accudire, insomma, difficoltà economiche senza fine. E allora sul tram di Madrid, il Signore gli fece capire che proprio perché lui era sulla croce, proprio in quel momento poteva comprendere davvero che era suo figlio e quindi che lui lo amava infinitamente, Dio Padre. E quindi cominciò a dire Abba Padre, cioè ad alta voce, non... e dice la gente avrà pensato che io ero matto, ma non riuscì per 2 ore, andava come ubriaco, passeggiando nelle strade di Madrid, ripetendo per Abba Padre, cioè quando Dio arriva con un dono di questi un po' importanti, ci sconvolge la vita, no? Cioè l'amore di Dio per noi è veramente infinito. Cioè Dio stesso è amore, no? E ci ama con un amore infinito. Noi a volte, e di questo Gesù ti chiediamo perdono, se volete, io glielo chiedo per me, ci concentriamo molto su quanto noi riusciamo ad amarti, su quanto noi vogliamo amarti, su quanto noi non riusciamo ad amarti, e va bene, ovviamente ci vuole anche questo, ci aiuta poi a chiederti perdono. E perché ci dimentichiamo di te, perché non so, io perlomeno. Però in realtà la cosa più importante è quanto Dio stesso ci ama. E Gesù in questa ultima cena lo dice ai suoi discepoli: il Padre stesso vi ama, il Padre stesso vi ama. E San Paolo quando scrive ai Romani dice: San Paolo ai cristiani che sono in Roma, amati da Dio, cioè la caratteristica dei cristiani è amati da Dio più che coloro che amano Dio, che anche è vero e speriamo che sia così, cioè desideriamo di amarti, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Di corrisponda, ma il nostro amore è sempre una risposta, no? È una corrispondenza, lo sappiamo bene, ma penso che ci faccia bene ricordarlo, no? E a quel punto, ecco, dopo aver detto Gesù, figlioli, ancora per poco sono con voi, mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, voi non potete venire dove vado io, vi do un comando. E ecco, a questo punto è la prima formulazione del comandamento nuovo. Loro che sono abituati nel popolo di Israele a ricordare i comandamenti di Dio, le tavole della legge di Mosè, e poi discutevano qual è il comandamento più grande, il dottore della legge che andava da Gesù a chiedergli qual era il comandamento più importante di Dio. Il giovane ricco che dice: ma cosa posso fare per ottenere la vita eterna? E Gesù gli dice: gli cita i comandamenti, gli cita i comandamenti verso il prossimo. Interessante anche questo. Comincia dal quarto e va avanti, no? E fa questo e vivrai, no? Ecco, loro che hanno tutta questa cultura religiosa, possiamo dire così, quindi lui come Dio ha dato le tavole a Mosè, lui dice: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Quindi Gesù, questo tu ce lo dici tra il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro. Cioè tu vai avanti, tu non ti fermi, anzi non ti fai scoraggiare da questi fatti che in qualche modo stanno scritti, no? Sono nella previsione di Dio. E questo comandamento nuovo, San José Maria interpretava questo comandamento nuovo, diceva: è sempre nuovo, no? È sempre nuovo. Ma infatti è sempre nuovo. Cioè non... Perché noi Gesù non possiamo mai dire: lo sto vivendo bene, lo sto vivendo con pienezza. Come io ho amato voi, il termine di paragone sei tu, come possiamo noi amarci come tu ci hai amato? Cioè tu, e potremmo fare, volendo, tutto un lungo corso di esercizi, di ritiro, o una lunga trattazione per vedere come tu ci hai amato, Gesù. Come ci hai amato? Ci hai amati innanzitutto mettendoti al nostro livello e prendendo la nostra natura umana, tu che eri Dio, ti sei fatto come uomo, per esempio, potremmo meditare tanto su questo, no? Ci hai amati prima ancora creando il mondo, ci hai amati inventandoti questa dimensione della creazione, cioè tu ci hai voluto portare la vita, non ci hai lasciato nel non essere, no? Tu hai pensato a creare la mia persona con tutte le circostanze della genealogia umana, della storia del mondo, ma tu hai pensato a me, tu mi hai creato come l'artista crea la sua opera. E poi quando io sono scappato via, no? Come Pinocchio scappa dalle braccia di Geppetto, no? che è un'immagine di Dio creatore, sei venuto a cercarmi. Sono venuto a cercare la pecora smarrita. Quindi Gesù, io penso che è proprio così, cioè noi quando mettiamo la mente su di te, quando pensiamo a te, quando, perché anche tra di noi a volte, perlomeno le persone che sanno di avere un compito apostolico nella Chiesa, da laici, da battezzati, in mezzo al mondo, con i loro colleghi di lavoro, con i loro parenti, con gli amici, con i conoscenti, a volte ci diciamo: parlare di Dio è... Con le persone, con gli amici. E da un lato non è facile parlare di Dio, però dall'altro, se noi ti vediamo così come tu ti sei rivelato a noi, allora è bello parlare di Dio, è facile parlare di Dio, ma noi dobbiamo parlare di quanto tu ci ami, non solo che esisti, ci sei, ma ti sei incarnato e sei morto per noi, no? E sei risorto. Quindi hai vinto la morte, che è l'ultima nemica. Questo è la sostanza, viene a volte chiamato il kerigma, no? Cioè un annuncio essenziale iniziale, no? Da dire alle persone, no? Io mi ricordo sempre che ho un amico molti anni fa, no? Che faceva il praticante in uno studio di avvocati e aveva l'avvocato da cui lavorava molto più grande di lui, e che faceva professione di ateismo e a volte discutevano sull'esistenza di Dio. E un giorno a questo giovane, di fronte a tutte le obiezioni che gli faceva il principale, che poi era anche il suo datore di lavoro, che, insomma, quindi c'era anche un rapporto così di deferenza normale. A un certo punto gli venne da dire, forse fu lo Spirito Santo che lo ispirò, sì, non so se gli dava del lei, probabilmente sì, comprendo tutto quello che lei dice, ma sta il fatto che Dio la ama. E lui mi raccontava che di fronte a questa frase, quell'uomo grande, pieno di esperienza, pieno di sapienza umana, pieno di forse anche di potere umano relativo alla sua professione, fu profondamente colpito e commosso e dovette scappare via a piangere di nascosto, no? Di fronte alla essenzialità dell'annuncio che salva. Non ci salviamo noi da noi stessi con tutte le nostre, no? Il nostro impegno ci vuole, no? Come, però prima di tutto c'è l'amore di Dio. E tu Gesù, per darci un modello per come ci dobbiamo amare noi, dici come io vi ho amato. E se possiamo dire, hai voluto stare nel grembo di Maria per 9 mesi, hai voluto vivere da profugo, da rifugiato, da rifiutato, da calunniato, da perseguitato, perché lo volevano uccidere. E poi da persona normale, da persona comune, da figlio dell'artigiano, eh? Tanto che poi nessuno ci credeva che potesse essere lui il Messia, da uno come gli altri, da uno come noi. E poi sei andato incontro hai voluto finalmente rivelarti e sei andato incontro a tante difficoltà, a tante incomprensioni, a tante persecuzioni, a tante. Quante volte lo vogliono lapidare? Perché noi pensiamo alla croce, prima lo volevano lapidare, lo volevano buttare giù dal monte a Nazareth, cioè. Lo vogliono, vanno ad ascoltarlo per trovare qualche parola per accusarlo, gli hanno mandato le spie intorno. E poi finalmente tu Gesù ci hai amato dandoci te stesso come cibo, pensate, no? Certo, chi è madre sa un po' cosa vuol dire, no? Nutrire con se stessa i bambini neonati. Questo lo fa per tutti e con tutto se stesso, non solo con un po' di latte materno, che pure è molto, perché poi vi sentite, come dire, risucchiate, no? Così ci dobbiamo amare tra di noi, Gesù, cioè come tu ci hai amato, sei arrivato a dare la vita sulla croce per noi, così ci dobbiamo amare tra di noi. E in effetti dobbiamo riconoscere che nella vita della Chiesa c'è stata anche tanta santità, tanti errori, tanti guai in ogni epoca della Chiesa. Mi ricordo un amico professore di storia della Chiesa che mi dice, guarda, non c'è mai stata un'epoca d'oro nella Chiesa, no? Ci sono stati problemi diversi, eh? A volte molto, se li sentiamo raccontare, è che la storia della Chiesa è poco conosciuta anche da noi, no? Nei licei italiani non si studia storia della Chiesa, no? Se non poche cose. Però se volete, vi pigliate un manuale di storia della Chiesa, di questi che si studiano nei seminari. È molto istruttivo perché si vede che è Dio che fa la Chiesa. Guai, difficoltà esterne e interne, tantissime, a volte per noi inimmaginabili. Per noi che viviamo questo periodo, che vediamo i problemi della Chiesa, alcuni li vediamo, altri li sappiamo, insomma, Non c'è mai stata una storia, un'epoca d'oro nella storia della Chiesa. Non c'è mai stata, eppure c'è stata sempre però santità, in alcune epoche di più, in altre, cioè perlomeno la santità riconosciuta, la prima, la santità la giudica Dio. E poi il nostro San José Maria diceva: non ci sono santi sulla terra, nessuno, solo in cielo, quindi. È una parola che va intesa, cioè santo del cielo, colui che è arrivato in cielo. I primi cristiani però si chiamavano santi tra di loro, cioè riconoscevano che c'era stata un'azione di Dio. Ecco, i santi, alcuni santi canonizzati, hanno capito questa cosa e hanno dato la vita, no? Santa Gianna Beretta Molla dà la vita perché la figlia possa vivere, no? E anche altre, sapete bene, o altri martiri, no? Massimiliano Kolbe dà la vita perché possa essere salvato quel padre di famiglia, no? E tantissimi altri, no? Hanno dato la vita, hanno vissuto questo comandamento nuovo dell'amore. E sapete che nella casa dove abito io a Milano, e nel centro dell'Augusta dove abito, c'è un quadro dove c'è questa frase messa in latino: mandatum novum do vobis ut diligatis invicem sicut et ego dilexi vos, e che è una frase scritta con una grafica molto elementare, no? Niente di speciale, e che San José Maria fece scrivere da un ragazzo e la mise nella sala di studio della prima residenza a Madrid, di studenti, no? In via Ferraz, che è una via del centro, insomma, se chi va a Madrid la può ritrovare. E quella casa fu bombardata nella guerra civile. Poi, quando loro tornarono a Madrid e la guerra era finita, entrarono dentro quella casa, ci sono delle foto, c'erano macerie dappertutto, avevano rubato tutti i mobili, però tra le macerie il giovane Don José Maria, con qualche altro ragazzo, ritrovò quel cartello, cioè di tutte le cose che lui aveva messo in questa prima casa dell'Opus Dei, che aveva messo in piedi a Madrid, ritrovò quella frase del Vangelo. E poi la regalò ai suoi figli italiani e l'abbiamo messa lì, no? Con dietro una frase sua che dice: questa è la, che testifica che è quella lì. E lui pensò, e mi passo questo suo pensiero oggi, no? Che è il 17 maggio, c'è questo ricordo della sua beatificazione. Pensò che il Signore gli voleva dire: cioè questo è il fondamento su cui vivere questa avventura apostolica e di santità dell'Opus Dei, ma d'altra parte questo è il fondamento della Chiesa, è il comandamento nuovo, cioè perdi tutto, ti rubano tutto, ti bombardano la casa, ma quello che rimane è il comandamento nuovo dell'amore. Se noi vivessimo così, ma sicuramente un po' lo viviamo, quindi non è che. E i primi cristiani che lo vivevano attraevano, ma ovunque c'è l'attrazione di Cristo della croce, c'è anche l'attrazione dell'amore reciproco, no? Che guardate come si amano, no? Dicevano dei primi cristiani, no? Secondo Tertulliano, guardate come si amano. E noi ti chiediamo, Gesù, che questo possa accadere anche di noi. Certo, poi che cosa significa amarsi come tu ci hai amato? Ecco, potremmo meditarlo e rifletterci personalmente ciascuno di noi, perché, e poi anche forse insomma farlo oggetto di, parlarne anche in altre meditazioni. Intanto noi chiediamo alla Madonna di radunare il frutto di questa meditazione, di ricordarcelo, di permetterci di assaporare l'amore di Dio per noi, di non farci schiacciare da tradimenti, rinnegamenti, peccati, ma pensare che l'amore di Dio vince tutto, perdona, supera, ingloba, cioè vince il male con il bene, come diceva San Paolo. San José Maria diceva: annegate il male con l'abbondanza di bene. Annegate il male con l'abbondanza di bene. E che Maria ci aiuti a capire cosa può voler dire questo nella nostra vita quotidiana, di lavoro, di famiglia, nella nostra vita sociale.